Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il gioco è una cosa seria, ha detto qualcuno. Non c'è niente di più vero, per convincersene basta guardare con quanta serietà e concentrazione giocano i bambini. Oggi raccontiamo la storia di un uomo per il quale il gioco ha rappresentato e rappresenta tuttora qualcosa di molto serio, di vitale. Un uomo che, grazie alle sue conoscenze tecniche, scientifiche serie e competenti, ha inventato uno dei giochi più diffusi al mondo. Il nostro protagonista di oggi è Alexey Pajitnov e il suo nome non vi dirà molto, non diceva nulla neanche a me prima di immergermi nella vicenda. È un ingegnere elettronico moscovita che verso la metà degli anni Ottanta, quindi in pieno regime sovietico, realizza per il suo puro divertimento privato quello che ancora oggi uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. Vediamo se lo riconoscete ascoltando la musica di sottofondo. E intanto scendevano le tesserine. Sono certo che ora sapete di cosa stiamo parlando, perché milioni di persone in tutto il mondo da 30 anni hanno ascoltato, ascoltano questa musichetta mentre cercano di sistemare in buon ordine i mattoncini colorati che cadono inesorabilmente verso il fondo dello schermo. È amato dai grandi, dai bambini. Insomma, il gioco di cui parliamo è il Tetris. Che poi questa musichetta non è tanto una musichetta, perché è un sottofondo musicale molto serio, perché quando Alexey Pajitnov lo sceglie va a pescare nella tradizione popolare del suo paese. Questo è il riarrangiamento di Karabieniki, che è un notissimo canto popolare russo. Ma perché è tanto interessante questa storia? Perché qui non si parla solo della genesi del gioco, dell'invenzione del Tetris, cosa già di per sé molto affascinante. Qua ci sono gli estremi per parlare di una vera e propria spy story che nasce tra i paesi da una dall'altra parte della cortina di ferro, raggiunge l'Europa, attraversa gli oceani, arriva fino negli Stati Uniti e in Giappone. È una avventura incredibile per un piccolo giochino che frutta milioni di rubli, poi di sterline, di dollari e di yen, ma che non vanno nelle tasche giuste, cioè di quello che il gioco l'ha inventato. Vedremo questa affascinante storia. Alexey nasce nel 56, quindi all'epoca dei fatti legati all'invenzione del Tetris, ha 30 anni. È nato sotto il regime di Khrushchev, poi è passato a Brezhnev, Kosygin, Podgorny, Andropov, Chernenko. Ora guarda con interesse a un nuovo uomo politico che si affaccia all'orizzonte della Unione Sovietica e del mondo, Mikhail Gorbachev. Siamo agli inizi della sua ascesa, la perestroika è un fatto ancora lontano, il muro di Berlino è ancora lì, il clima che si respira a Mosca è quello della guerra fredda. La crisi economica gela più del ghiaccio sulle strade. La libertà politica e di pensiero sono un'utopia lontana da venire. Insomma, me lo ricordo perché in quegli anni avevo cominciato ad andare a suonare in Russia e vi assicuro, insomma, che il clima era molto lugubre, molto brutto da vedersi. Alexey Pajitnov è un ingegnere elettronico, lavora al Dorochin Computing Center dell'Accademia Sovietica delle Scienze, che è un centro di ricerca e di sviluppo fondato dal governo. Lui si occupa di questioni molto serie, importanti per il paese, e progetta le traiettorie degli Sputnik, i satelliti spaziali che orbitano attorno alla Terra. Alexey Pajitnov lavora 14 ore al giorno, è un recluso che vive la maggior parte della sua vita tra le mura del centro di ricerca, però ha una grande passione, è un ingegnere elettronico, insomma va matto per i computer. I was absolutely natural hacker. Ero proprio un hacker naturale e il computer mi affascinava veramente. Potevi fargli fare qualsiasi cosa, letteralmente, bastava dare gli ordini giusti e lui ti seguiva. You just write instruction that it follows. Però se si sta in ufficio 14 ore al giorno, ogni tanto bisogna pur prendersi qualche pausa. Alexei coltiva un hobby che si porta dietro dall'infanzia, perché lui adora i puzzle. I always like all kind of games and puzzles. Mi sono sempre piaciuti tutti i giochi, e in particolare i puzzle. Quando ero uno studente, non avevamo molte cose con cui divertirci. Si giocava soprattutto a scacchi, ed eravamo sempre alla ricerca di qualche giochino nuovo nei negozi. Io ero appassionato del pentomino, un puzzle che consiste in 12 pezzi diversi, composti ciascuno da 5 quadrati, e lo scopo è quello di metterli tutti dentro una scatola rettangolare, incastrandoli nel modo giusto. È un puzzle molto famoso da noi e tutti lo amano. Io ero bravissimo a farlo. Bene, ora immaginiamoci il nostro ingegnere elettronico che passa le sue giornate lavorando al computer, poi quando si ferma per una pausa si mette a giocare con il suo pentomino. Dai oggi, dai domani, può anche diventare ripetitiva la cosa. Insomma, la necessità aguzza l'ingegno. Ecco che a Pajitno viene in mente un'idea, quella di unire le sue due passioni, il computer e i puzzle. Chissà se è possibile, si domanda. In fondo il computer fa quello che gli dici tu, come ha detto prima. Fa quello che vuoi tu, basta dirglielo nel modo giusto. Pajitnov inizia a lavorare come un matto, ha un nuovo progetto e anche i suoi colleghi se ne accorgono. Ascoltate cosa racconta Mikhail Kulagin, che è un altro ingegnere programmatore, quello che divideva l'ufficio con Pajitnov. Per alcuni mesi si trattò di un lavoro incomprensibile che nessuno capiva. Qualcosa cambiava sullo schermo, ma non era chiaro cosa fosse. L'unica certezza che avevamo era che Alexei fumava una quantità enorme di sigarette. E Pajitnov inizia a trasferire le forme del suo pentomino sullo schermo del computer. Poi ha un'intuizione, si accorge che i pezzi sono troppo complicati, composti da 5 quadratini, e quindi come prima cosa riduce i quadrati a 4. Se tu metti insieme 4 quadratini hai 7 possibilità, 7 forme differenti. Lui le mette in atto e quindi non sono più dei pentomini, diventano dei tetramini, da tetra che in greco significa 4. Quindi adesso cosa fare con questi pezzi di puzzle? Come farli arrivare? Come giocarci? Non sono risposte semplici, soprattutto perché a quel tempo i mezzi tecnici a disposizione non sono così sofisticati come oggi. Però il gioco è un affare serio, continua a ripetersi Alexei Pajitnov. Il falco e il gabbiano. L'ingegnere elettronico moscovita Alexei Pajitnov è alle prese con una sua nuova invenzione, un videogioco che sta nascendo sotto i suoi occhi. Dopo aver realizzato i diversi pezzi del puzzle elettronico, deve decidere come muoverli, come farli arrivare sullo schermo del PC e che cosa fare compiere a questi pezzi. Non sa bene da dove iniziare, si occupa di questioni molto complesse, lui di orbite spaziali, di traiettorie, di mezzi velocissimi. Siccome è in difficoltà, si rivolge al suo mito, che è Galileo Galilei, e si domanda cosa farebbe lui al mio posto. Beh, Galileo ha studiato tutta la vita la gravità, ed è un ottimo suggerimento. Ecco il colpo d'ala, anche se è un colpo d'ala verso il basso. I corpi cadono appunto verso il basso. I suoi pezzi di puzzle devono cadere e la meccanica del gioco si va delineando nella sua mente. I tetramini cadono giù uno alla volta, il compito del giocatore è ruotarli e muoverli in modo che creino una riga orizzontale di blocchi senza interruzioni. Quando la riga è stata creata, i mattoni spariscono, i pezzi sovrastanti cadono a formare nuove linee. Bene, per imparare a giocare ci vuole ancora meno del tempo che io ci ho messo a spiegarvelo, perché dopo un secondo hai capito il gioco e sei già appassionato. Lui non mette un limite di tempo, se il giocatore è bravo può in teoria giocare in eterno, anche se non è vero perché poi cominciano a scendere in fretta e cominci ad andare nel panico. Comunque i tetramini cadono senza posa e la gravità domina questo puzzle elettronico. I did play a lot with this kind of strange prototype. Giocavo moltissimo con quello strano prototipo e mi resi conto che non riuscivo a smettere. Mikhail Kulagin e altri miei colleghi mi dicevano: «Ma cosa fai tutto quel tempo?» Allora feci provare il gioco ad altre persone nel mio ufficio e compresi che non ero io, che ero un cucù impazzito, con qualcosa di sbagliato nel cervello. Perché tutti quelli che scoprivano questo gioco non riuscivano più a smettere. Ujinov decide di dare un nome a questa sua invenzione. Anche qui ha un'intuizione straordinaria e, siccome è un grande appassionato di tennis, unisce il nome del suo sport preferito al suffisso tetra. Nasce così il nome Tetris, un tetra tennis destinato a diventare un successo planetario, perché come un virus terribilmente infettivo il Tetris diraga prima nel PC dei colleghi di Pajitnov, poi in quelli degli amici e dei parenti e così via. Nel giro di un paio di settimane non esiste un solo PC in tutta Mosca dove i mattoncini inventati da Alexei Pajitnov non cadano incessantemente per la gioia dei giocatori. Ma in cosa risiede l'appeal di questo gioco così semplice, quasi elementare e senza molti abbellimenti grafici? Come dire, il trucco è proprio lì ed è un trucco psicologico. Ascoltiamo il suo inventore. When you play Tetris, you have impression that you build something. Quando giochi a Tetris hai l'impressione di costruire qualcosa. Ha un forte spirito di costruttività. I pezzetti arrivano random e il tuo compito è metterli in ordine. Quello che salta all'occhio tutto il tempo sono i tuoi errori, sono quegli odiosi buchi, e questo ti porta a volerli chiudere tutto il tempo. Sì, è esattamente la verità. Pajitnov si rende conto di avere per le mani qualcosa di molto interessante, decide di migliorare il gioco, riesce a dare a ogni tetramino un colore diverso, però qui c'è un passaggio chiave di tutta la vicenda. Tutto questo lui lo fa per il puro amore del gioco, non certo con un fine commerciale, anche perché in Unione Sovietica, e io lo so bene, non esiste il concetto di diritto d'autore. Le idee di ogni individuo sono di proprietà comune dello Stato, possono usufruirne tutti in maniera libera. E questo spiega perché, per esempio, io ho conosciuto, sono andato a casa di una cantante russa degli anni Ottanta famosissima che si chiamava Pugacheva, alla Pugacheva, che viveva in due camere mal ammobiliate pur avendo venduto milioni e milioni di dischi. Speriamo che nell'Occidente non vada mai a finire così. Comunque, lui non ha nessuna percezione del fatto che Tetris possa essere considerato un prodotto, possa essere venduto e crei un profitto, che è una parola delittuosa per quel establishment. È un concetto che non ha senso, peraltro, nell'Unione Sovietica di quegli anni, perché il commercio di un prodotto è qualcosa che viene connesso solo e esclusivamente allo Stato. Non esiste la proprietà privata, non esiste l'iniziativa privata, non esiste la voglia di investire su se stessi. Se tutto questo avvenisse, il protagonista di questa deviazione verrebbe punito con la prigione. Di PC in PC, da giocatore a giocatore, Tetris si spande a macchia d'olio, prima in tutta Mosca, poi nelle altre città dell'Unione Sovietica. Insomma, in pochi mesi varca i confini e conquista gli altri paesi del blocco. E qui Tetris smette di essere il divertimento di un ingegnere elettronico amante dei puzzle, smette di essere il giochino da passarsi con i floppy disk tra amici, per diventare il conteso protagonista di una vicenda dai risvolti veramente insospettabili, che coinvolgerà addirittura i servizi segreti russi, giungerà perfino sulla scrivania di Mikhail Gorbachev. Tutto ha inizio quando qualcuno, e non sapremo mai chi, porta una copia di Tetris in Ungheria, che è il paese già un pochino più affacciato verso l'Occidente, e lo porta all'Istituto della Scienza e della Tecnologia di Budapest. L'Ungheria è la patria di Erno Rubik, è un noto architetto, inventore, come sapete, dell'omonimo cubo, e forse il più famoso rompicapo di tutti i tempi, il cubo di Rubik, inventato negli anni 70, che trasforma l'Ungheria in un mercato molto florido, altamente specializzato nel commercio di giochi di vario genere, attira compratori soprattutto dall'Europa. Non è azzardato dire che Rubik ha dato una rassettata notevole al bilancio di quel paese, e tra questi c'è, tra i compratori europei, un certo Robert Stein, proprietario di una società inglese che si chiama Andromeda Software, che guarda caso si trova proprio all'Istituto della Scienza e della Tecnologia di Budapest. Siamo nei primi mesi del 1986. Ci trovavamo in una stanza enorme, piena di computer e di software che giravano. Vidi in un angolo un PC dove girava un gioco che consisteva in alcuni mattoncini di forme diverse che cadevano giù. Chiesi che cosa fosse, ma non lo sapeva nessuno. Continuai a camminare per la stanza, ma qualcosa mi riportava sempre verso quel gioco. Robert Stein si informa meglio e scopre che quel gioco di nome Tetris arriva dal Computing Center di Mosca e lui se ne intende, ha capito il potenziale economico che si nasconde dietro a quei mattoncini che cadono, quindi non perde tempo, contatta i russi. Alexei Pajitnov ricorda la reazione dei suoi superiori. A chi poteva interessare al computer center quel giochino? Erano presissimi con la fisica quantistica, le imprese spaziali, la guerra nucleare. I giochi erano qualcosa di assolutamente lontano dai loro pensieri. Stein propose qualcosa come 10.000 sterline per bloccare i diritti di utilizzo. E io gli risposi che se ne poteva parlare, perché in realtà non ero io ad occuparmene. Ma lui interpretò la mia risposta come un accordo su tutto. E questo, come dice lui il russo con accento inglese, agreement of everything, è solo l'inizio di una serie di equivoci che diventeranno fraintendimenti, malafede, prevaricazioni. È una vicenda tutta da scoprire insieme. Tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Alexei Pajitnov, ingegnere elettronico, programmatore, moscovita, ricercatore dell'Accademia delle Scienze Sovietiche, che però è appassionato di puzzle e a metà degli anni 80 inventa un gioco per il PC, così per distrarsi, per stare con gli amici, uno dei primi videogiochi. Bene, si chiama Tetris, unendo le parole tennis, il suo sport preferito, e tetra, che in greco significa 4, perché, come sapete, i pezzi del puzzle sono composti da 4 quadrati ciascuno. Tetris è talmente bello e appassionante che conquista prima appunto gli amici di Pajitnov, che era il, come dire, il suo scopo, però poi di PC in PC si espande in tutta la Russia e poi negli altri paesi all'interno della cortina di ferro. A questo punto inizia una sorta di spy story dai risvolti insospettabili, perché Tetris diventa la preda ambita da coloro che aspirano a accaparrarsi i diritti di utilizzo di questa miniera d'oro. Attenzione, perché i personaggi che entrano in gioco sono diversi, ciascuno avrà un ruolo molto importante nel dipanare questa matassa intricata. Dunque, come abbiamo raccontato, il primo che vede le grandi potenzialità, le enormi potenzialità di Tetris, si chiama Robert Stein, è il proprietario dell'Andromeda Software, che è un commerciante di programmi e giochi elettronici. Stein ha fiutato l'affare, parla con Alexei Pajitnov e qui c'è il primo qui pro quo. Dalla loro conversazione Stein esce con la convinzione di aver ottenuto l'esclusiva dei diritti di Tetris. In realtà non è così, perché Pajitnov intanto parla poco e male l'inglese, non si è spiegato bene, perché lui non ha nessun potere, non ha il potere di decidere nulla riguardo ai diritti del suo gioco. Siamo in Unione Sovietica, tutto fa capo allo Stato, nessuno in Unione Sovietica decide nulla, ma questo Stein non lo sa, forse non vuole saperlo, fa finta di non saperlo, insomma si ritiene libero di offrire Tetris a qualche suo cliente produttore di videogiochi. Il suo preferito in assoluto è la Mirrorsoft del gruppo Maxwell, quelli delle C90, delle cassette. Maxwell in quel momento è un impero dell'entertainment britannico. Il proprietario si chiama proprio Maxwell, Robert Maxwell, e non è solo un multimiliardario, è un membro del Parlamento, fa parte dei laburisti, è l'editore del Daily Mirror, possiede riviste, giornali, squadre di calcio, se vi viene in mente qualcuno ditelo, sì, tipo un Berlusconi inglese, però ha interessi anche oltreoceano, negli Stati Uniti, è uno che ci vede molto lontano e i diritti di Tetris li acquista all'istante. Il virus che arriva dal freddo conquista Inghilterra e Stati Uniti in un lampo. Ascoltate Phil Adam, che è il programmatore della Maxwell Corporation America. La curiosità nei confronti di tutto quanto arrivasse dai paesi oltre cortina era enorme. La gente andava matta per quelle cose. Tetris era straordinario. Realizzammo una confezione rossa e scrivemmo la parola Tetris in cirillico, inserendo alcuni simboli sovietici. We used a Soviet symbol. Tetris conquista i produttori inglesi e quelli statunitensi. I tecnici della Mirrorsoft migliorano la grafica, danno ai mattoncini dei colori vivaci e mettono, insomma, a Tetris un bel vestito. Ne preparano il lancio sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. È una massiccia campagna pubblicitaria, descrive le meraviglie di questo gioco strepitoso che sta per essere lanciato con lo slogan «Dalla Russia con amore». I giornali di Maxwell naturalmente fanno un gran rumore intorno a quello che per la Mirrorsoft è l'affare del secolo, anche perché non hanno pagato quasi niente. Peccato che questi signori non abbiano fatto i conti con l'Unione Sovietica. Ascoltate il racconto di Robert Stein. As we are about to launch the damn thing. Eravamo in procinto di lanciare quel dannato gioco quando ricevemmo un telex da una società russa chiamata Elorg, una società mai sentita prima, che ci avvertiva che non avevamo il diritto di lanciare quel gioco perché apparteneva a loro e loro non ci avevano mai dato il permesso di farlo. And they have never given us permission to do it. E qui iniziano i problemi, perché la Elorg è l'organo del governo sovietico incaricato di gestire l'import-export di tutti i software e hardware del paese. E la cosa si fa seria. E sono controllati direttamente dal Ministero del Commercio con l'estero. Tutto quello che viene comprato, viene venduto nell'Unione Sovietica deve necessariamente passare dal governo, perché l'impresa privata, ricordiamolo, in Unione Sovietica non esiste. La proprietà privata, aveva detto qualcuno prima di loro, è un furto. Robert Stein si ritrova in una posizione difficile. Ora, chi è che glielo dice a Maxwell che i diritti di Tetris non sono suoi? La Mirrorsoft ha investito tantissimo su quel gioco, la macchina è partita la promozione, non si può fermare tutta questa onda che si sta muovendo verso il mondo. Poi c'è un'altra complicazione. Il vero business che Maxwell aveva adocchiato non è legato alla versione di Tetris per PC, perché in quel momento non sono in molti a possedere un computer. Il vero business è nella console, quelle che consentono di giocare direttamente sul televisore di casa. Poi più avanti addirittura te la porti in tasca la console. Comunque Maxwell, da bravo uomo d'affari, ha già individuato il partner giusto per fare il botto. E il suo partner si chiama Atari. Ascoltiamo Randy Brolyte, che è il manager di Atari. They held the rights to the game. A noi risultava che Maxwell possedesse i diritti del gioco. Mi contattarono perché realizzassi una versione per console. Erano tutti impazziti per questo Tetris. Pensammo che i pezzi di puzzle dovessero essere tridimensionali. I nostri ingegneri gli dettero una forma migliore, più in rilievo, e poi anche come i pezzi scendevano dall'alto verso il basso era più bello. Dal punto di vista commerciale era un progetto molto eccitante, perché il potenziale di profitto era enorme. The profit potential was enormous. In tutto questo vorrei anche sottolineare che mentre succede tutto questo pandemonio, mentre Stein studia come fare per concludere il contratto con i russi, mentre i manager di Maxwell e Atari fanno i conti con i milioni che entreranno in tasca, il protagonista di tutto, Alexei Pajitnov, è del tutto ignaro di quello che sta capitando. Continua a misurare le orbite degli Sputnik e a percepire il suo piccolo stipendio da ingegnere del Soviet. E aspettate, a complicare la già ingarbugliata situazione che si è creata tra il governo sovietico, Stein, la Maxwell Corporation e la Atari, sta per arrivare un altro contendente del Tetris, che sarà fondamentale nella sua diffusione mondiale. Stiamo parlando del mercato forse più attivo negli anni Ottanta in fatto di videogiochi, perché arrivano anche i giapponesi. Hank Rogers è una specie di segugio dei videogiochi, lavora per la Nintendo, il colosso giapponese si sposta di fiera in fiera, di paese in paese, alla continua ricerca di giochi sempre nuovi. E incontra per la prima volta Tetris al Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove il gioco viene presentato da Atari. È un gioco talmente straordinario che Rogers si aggiudica immediatamente i diritti per il mercato giapponese, sia per la versione PC sia per la versione console, e a questo punto la partita è completa di tutti i suoi giocatori. In Europa e negli Stati Uniti la Maxwell Corporation con Atari, in Giappone e nel mercato asiatico la Nintendo, un affare di parecchi milioni di dollari fondato in realtà sul nulla, perché alla cima della catena c'è Robert Stein, che non ha alcun contratto firmato con i russi, sta facendo come il capostazione che vende il treno. Tra l'altro, Stein ha ricevuto anticipi per l'esclusiva di Tetris. Ai russi, peraltro, non ha dato il becco di un quattrino. Ascoltiamo Nikolai Bielikov, che è il responsabile di E-Lorg, l'organo del Soviet detentore dei diritti di Tetris. Quando lessi l'accordo con Andromeda Software di Stein mi sentii male. Diceva che in attesa di formalizzare il contratto avrebbero provveduto a dare degli anticipi. Il primo pagamento doveva venire dopo 3 mesi, ma da quell'accordo, che era datato 10 maggio 1988, erano già passati oltre 6 mesi e noi non avevamo visto un rublo. Iniziai a pensare a cosa fare per farmi pagare da Andromeda. Andromeda Software platì dinghi. La burocrazia sovietica è lenta, in quegli anni è la più lenta e articolata del mondo, più di quella italiana, ma alla fine si arriva al nodo centrale della questione. Tetris sarà venduto in tutto il mondo, ma nessuno ha un vero contratto. I ricavati delle sue vendite per ora finiscono nelle tasche di Atari, di Maxwell e di Stein, però non in quelle dei russi, men che meno in quelle del suo inventore Alexei Pajitnov. Intanto in Giappone Hank Rogers è alle prese con un progetto dalla portata straordinaria, perché Nintendo sta per lanciare sul mercato un prodotto rivoluzionario, il Game Boy, e se avete figli sicuramente sapete di cosa parlo, e se invece siete un po' più agile lo sapete perché ce l'avete avuto anche voi. E il Game Boy, la Nintendo ha intenzione di venderlo in abbinata con i Tetris, e uno l'ho comprato anch'io. Si tratta di un'operazione milionaria. Come ovvio, i giapponesi chiedono di formalizzare un contratto direttamente con i russi. Hank Rogers si rivolge a chi sta in cima alla catena, e cioè a Stein. I contacted Robert Stein. Contattai Robin Stein. Mi doveva rappresentare per ottenere i diritti dai russi per poter usare Tetris con il Game Boy. Lui si dichiarò d'accordo. Così gli inviai una caparra di $25,000. $25,000. Altri soldi che finiscono nelle tasche di quel furbacchione di Stein. Ma poi passano i mesi, non succede niente, il contratto non arriva. Hank Rogers inizia a insospettirsi, decide di andare direttamente alla fonte, alla E-Lorg. Lo stesso decide di fare anche Robert Maxwell, anche lui in attesa di un contratto coi russi da molti mesi. Robert Stein sta facendo un gioco pericoloso, intasca gli anticipi ma se li tiene. Avete presente quelle barzellette dove c'è un americano, un russo, l'inglese, un giapponese? Ecco, è esattamente quello che succede. 3 aerei, uno proveniente dal Giappone, uno dall'Inghilterra, uno dall'America, atterrano a Mosca. Hank Rogers, Robert Stein e Kevin, figlio di Robert Maxwell. Tutti e 3 hanno un appuntamento con Nikolai Bielikov, fissato il 22 febbraio 1989. Volevano tutti incontrarmi proprio lo stesso giorno. Io non capivo cosa ci fosse dietro, soprattutto chi lavorava con chi, ma avevo capito molto bene che i 3 non si dovevano incontrare tra di loro. E Nikolai Bielikov si fa un'idea ben precisa dei suoi 3 interlocutori. Dunque, Stein, è un trafficone che continua a intascare soldi da tutti senza avere in mano neanche una coppia d'assi. Kevin Maxwell è il viziato rampollo di un impero molto potente che dà per scontata la cessione dei diritti di Tetris. E poi invece c'è Hank Rogers, che è un giovane schietto, sincero, che espone con chiarezza e onestà il progetto di Nintendo e che, a differenza degli altri due, ha veramente una passione per i giochi. Insomma, una passione che intanto lo spinge a voler conoscere l'inventore di Tetris e poi a creare un'empatia con lui. Ascoltate il racconto di Alexei Pajitnov. Out of all this... Mi venne a trovare questo ragazzo vestito da businessman che cercava di ottenere un contratto, una licenza di utilizzo di Tetris. Ma vidi subito che era appassionato di giochi come me. Avevamo un sacco di cose in comune e ci fummo subito simpatici. Insomma, tra i 3 contendenti la spunta Hank Rogers e firma il contratto. I diritti di Tetris vanno dunque ai giapponesi, però la questione è molto lontana dalla sua soluzione, perché intanto quando Robert Maxwell scopre che il figlio ha fallito nella sua missione va su tutte le furie, anche perché intanto Atari, cioè lui, ha già prodotto 500.000 di copie di Tetris, e Maxwell cerca di usare tutto il suo potere per cambiare le cose, e Nikolai Bielikov riceve una missione molto poco rassicurante. Maxwell mi accusò di aver messo in pericolo i rapporti commerciali tra Unione Sovietica e Gran Bretagna con il mio comportamento irresponsabile. Il 23 marzo mi arrivò un telex lunghissimo da Kevin Maxwell che diceva che i miei molti errori di gestione dell'affare Tetris sarebbero stati rivelati al presidente Gorbachev durante la sua prossima visita a Londra e una copia di quel telex sarebbe arrivata sulla scrivania del presidente. Queste erano minacce, non era più business. Insomma, per dirla breve, Nikolaj Bielikov è veramente in mezzo a un vero casino e non sa come comportarsi, prende tempo. Dopo alcuni mesi riceve un ordine terribile che gli arriva dal KGB, i servizi segreti sovietici che hanno sulla coscienza migliaia e migliaia di persone. Lui deve recarsi immediatamente a Londra, gettarsi ai piedi di Robert Maxwell, supplicarlo che non faccia parola con Gorbachev di quanto accaduto, in cambio del contratto firmato. Il KGB lo minaccia di morte se non partirà subito. Però, per fortuna, siamo nel novembre dell'89, cade il muro di Berlino, la perestroica trasforma tutto, l'Unione Sovietica inizia quelle grandi mutazioni che porteranno alla caduta del regime comunista. Bielikov è fortunato, l'affare Tetris comincia a smontarsi da solo. Negli Stati Uniti invece la guerra per l'utilizzo di Tetris è solo agli inizi, perché la causa Atari Nintendo diventa di dominio pubblico. Naturalmente alla fine a vincerla è la multinazionale giapponese. Tetris diventa un successo mondiale anche grazie al Game Boy. Solo tra l'89 e il 91 le vendite arrivano a oltre 70 milioni di copie. Scoppia una vera e propria mania. Io mi ricordo che a fine del 1990 io stavo registrando un album Peter Pan. Eravamo in un posto meraviglioso, Villa Condulmer a Treviso. C'erano piscine, cavalli, tennis. Bene, quell'album costò almeno il 40% di budget in più, non per merito appunto della piscina e di tutte le bellezze, ma per il Tetris, perché tutte le volte che serviva qualcuno in studio, me compreso, quello stava giocando a Tetris. Insomma, è una vera e propria mania. Il guadagno per Nintendo e il governo sovietico diventa una cifra immensa, oltre 70 milioni di copie vendute. Bene, di tutto questo Alexei Pajitnov non percepisce neanche un rublo. Nel 1991, con l'aiuto dell'amico Hank Rogers, Alexei Pajitnov e la sua famiglia si trasferiscono negli Stati Uniti, a Seattle, dove l'ingegnere si dedica alla creazione di videogiochi. Gli inizi sono difficili perché lui non ha soldi. Sembra assurdo che l'inventore del gioco elettronico, che tutto il mondo sta giocando bene, sia povero. Ma finalmente nel 96, con il nuovo corso della storia, i russi riconoscono a lui, al legittimo inventore, a quello che è l'unico che i soldi li meritava sul serio, dei diritti. Il Tetris oggi è uno dei videogiochi più venduti di sempre. Siamo arrivati, si parla, a 125 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Quindi già se gli diamo, non so, un dollaro a copia, questo comincia a sistemarsi. Tanto è vero che Pajitnov ha fondato con Hank Rogers la Tetris Company, con sede alle Hawaii. Detiene questa compagnia tutti i diritti del gioco. Oggi il suo inventore può finalmente godersi quello che gli spetta di diritto. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno dato un colpo d'ala e magari, come Alexei Pajitnov, sono riusciti a vedere riconosciuti i meriti di questo colpo d'ala solo parecchi anni dopo e solo grazie alla caduta di un regime e di un mondo intero. Lui è riuscito, ha ritentato, ha avuto cadute e risalite, ma alla fine ha vinto la sua battaglia. E ognuno di noi nella sua vita può vincerla, questa battaglia, rischiare di cadere, ma anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Come on, come on, come on,